AVS Media Demo. Oh yeah. Ho preso questa vita come viene. Lo so di certo questo non è il bene. Abbiamo dei politici parlanti e ora son nessuno tutti quanti. Ho fatto il voler del mio padrone e ciò che mi rimane è un bel bastone su cui poggiare il peso della vita, senza contare poi che la vita in salita resterà. In salita resterà. Ho visto e me che a voi piace parlare, ma vi consiglio un po' di respirare, perché il respiro è l'arte di chi pensa, senza sprecar poesie su qualcosa che nessuno ci darà. Allora lasciami sognare, e se permetti camminare, perché alla vita ho dato tanto e quel tanto indietro nessuno mi darà. Allora lasciami sognare, perché io voglio camminare. Se nella vita aspetti il giorno, un giorno, quel giorno la vita finirà. AVS Media Demo. Io porto i miei soldi in una tasca, tu invece hai bisogno di una borsa che pesa di fatica e sofferenza, di chi in tasca ormai non conserva neanche un filo di speranza, neanche un filo di speranza. Allora sta a sentire mio padrone, hai costruito un mondo di cartone. La pioggia bagnerà la sua potenza e il sole brucerà le pareti e il peso della tua coscienza. Allora lasciami sognare, e se permetti camminare, perché alla vita ho dato tanto e quel tanto indietro nessuno mi darà. Allora lasciami sognare, perché io voglio camminare.